tutti a seguito degli iscritti che si sono stati, si è arrivati oltre 10.000 euro di montepremi garantiti. A premio vanno 1.214 persone, in questo momento siamo già tutti quanti a premio perché siamo rimasti in 1.081 e quindi mano a mano che si sale nella posizione della graduatoria, quindi più arrivi vicino alla, al traguardo finale, più la sua vita è già. Ma io ho capito, più arrivi quasi alla fine, diciamo, e più montepremio incrementa. Bene, è interessante. Io guarda, sinceramente non ci ho mai messo naso a questi giochi qua. Io sono stato cresciuto nella classica scopa normale, scopa lasso, ho fatto la pinella. Il poker non mi ha mai attirato, no, perché magari quando ero ragazzino io c'era qualcuno della mia famiglia che era bravo e insomma ci ha giocato sacco e sale e anche vinto, non è che io non sono stato mai interessato così. Tu pensa, mio cugino addirittura giocando come stai dicendo tu ha vinto 40.000 euro, se aveva preso una barca anche, non è che, però è lì buttata in campagna, cazzo, adesso da parlarne. Questa modalità americana o quella italiana? Credo che sia quella italiana, sono stato lì a chiedere, però sapevo che faceva queste giocate così, ma credo in casa è una cosa del genere, lui è conosciuto a Sassari e poi gli ha tre parole verticali. Cappa. No, le cose ridicole della nostra legislazione sono che è vietato fare questi tornei perché sono considerati d'azzardo tutti gli anni iscritti, mentre online nelle piattaforme autorizzate dallo Stato non sono più d'azzardo. Perché magari sei, credo, insomma, in una certa maniera sei anche un po' controllato, credo. Assolutamente. No, però la cosa ridicola è che i vari gestori che hanno investito nell'organizzazione delle sale di gioco e di posizione, ma come può lo stesso gioco essere ufficialmente accettato dallo Stato se è fatto online, mentre se è fatto nel circolo privato è considerato un recinto finanziario? Ma che razza di razza c'è? Tant'è che questa razza è quella che guida e che detta le norme oramai da tanti anni. Ma credo che online magari, come hai detto tu, che sei controllato, hanno maniera di sapere chi ha vinto, magari per il fisco è anche insomma lo possono perseguitare, al contrario dei circoli del bar o così, capito? Ma questo è il mio pensiero, Ma anche lì tutti quanti erano disposti a eventualmente cosa, no? A registrare quelle che erano le persone, stabilito, inizialmente si era anche pensato a stabilire un buy-in, quindi una tassa di ingresso minima e massima, però niente, poi siamo in Italia, le cose vanno sempre in una maniera che molto assicurata. Questa è una risposta, per cui alla fine sono morti tanti in circoli e l'unica possibilità che è rimasta di giocare online. È vero, però è anche brutto dirlo, questa frase siamo in Italia, cioè siamo in Italia, tutto è concesso per loro, capito? Quindi avevamo un mezzo discorso anche a pranzo su questa cosa qua, ma io non la concepisco, io sono la classica persona che non voglio essere fregato, tra virgolette, però anche insomma mi hai capito. Certo. Comunque, niente, così è. Adesso siamo in 993. Andiamo avanti. Beh, allora, ma io ne approfitto, proprio ti saluto, perché non è che ho sonno, però prima di andare a nanna, devo preparare mio figlio di quei piccoli frantoi, no? Che a pari ora, latte, biscotti, mia moglie è già a nanna, quindi me lo devo occupare io. Ma lo fa, ok, ma obbedisce, quindi devo fare la ciotolina del latte con un po' di biscotto e quant'altro, quindi mi devo assentare e così poi lo preparo anche, andare in brand anche a lui. Tranquillo, tranquillo, dai. Buon resto di serata, sì, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, buon tutto e salutare a tutti gli amici di Sassuolo. Ciao, salato, ciao, buonanotte, buona domenica. Sì, suppongo che ci sia qualcuno che ci ascolti. Va bene, saluto anche a loro. Ciao a tutti, ciao, ciao.